Capitolo terzo. È davvero una grande sfortuna, altamente deprecabile, che questo periodo della carriera di Orlando, in cui egli ebbe parte capitale nella vita pubblica del suo paese, sia il meno documentato. Sappiamo che adempì ammirevolmente ai suoi doveri, prova ne sono l'ordine del bagno e il titolo di duca. Sappiamo che mise lo zampino nelle più delicate trattative tra Re Carlo e i turchi, ne fanno fede i trattati conservati nei sotterranei degli archivi di Stato. Ma la rivoluzione che scoppiò mentre gli era in carica e l'incendio che seguì hanno danneggiato o distrutto tutti quei documenti che avrebbero potuto offrire informazioni attendibili, cosicché quelle che possiamo dare sono lamentevolmente incomplete. Spesso il documento appare bruciacchiato proprio nel mezzo della frase più importante, proprio quando credevamo di poter delucidare un segreto che ha dato filo da torcere agli storici per un secolo. Ecco, nel manoscritto un buco grande da passarci il dito. Abbiamo fatto il possibile per ricucire un magro compendio dei frammenti anneriti che rimangono, ma spesso abbiamo dovuto speculare, congetturare e anche ricorrere all'immaginazione. Sembra che Orlando passasse la giornata in questo modo. Verso le 7 si alzava, si avvolgeva in una lunga vestaglia turca, accendeva un cirot e si appoggiava alla ringhiera del balcone. Rimaneva a guardare la città sottostante, apparentemente immersa nel sonno. A quell'ora la nebbia si stendeva così fitta che la cupola di Santa Sofia e le altre parevano fluttuare nell'aria. A poco la bruma si diradava, le bolle delle cupole si fissavano saldamente sulla terra, qua si vedeva il fiume, là il ponte di Galata, e là i pellegrini in turbante verde, cechi o senza naso, che chiedevano l'elemosina. E i cani randagi che frugavano tra l'immondizia e le donne avvolte nel barracano, e gli innumerevoli asini e uomini a cavallo armati di lunghi bastoni. Ben presto la città intera si svegliava al sibilare delle fruste, all'echeggiare dei gong, alle grida di richiamo alla preghiera, alle staffilate sulla groppa dei muli, al rimbombo sulle ruote cerchiate d'ottone. Mentre odori acri di lievito in fermento, incenso e spezie salivano fino alle alture di pera e sembravano l'alito stesso di quella popolazione barbara, stridula e multicolore. Nulla, rifletteva Orlando, fissando quel quadro che ora scintillava al sole, poteva essere più dissimile dalle contee del Surrey e del Kent, dalle città di Londra e Tunbridge Wells. A destra e a sinistra si levavano nudi e sassosi i monti inospitali d'Asia, a cui si aggrappava l'arido castelletto di qualche capo di briganti. Ma non c'era traccia di un presbiterio, di un maniero, o di una casetta, o di una quercia, di un olmo, di violette, di rose selvatiche o di edera. Non c'erano siepi dove si annidano le felci, né prati dove pascola il bestiame. Le case erano bianche come gusci d'uovo e altrettanto nude. Orlando, inglese fino al midollo, si sorprendeva tuttavia di sentirsi commosso fino nel profondo del cuore da quel panorama selvaggio, di essere capace di contemplare per ore e ore quei valichi, quelle cime lontane, progettando di andarsene solo, a piedi, fin lassù, dove solo le capre e i pastori avevano messo piede, di provare un'appassionata tenerezza per quei fiori sgargianti e senza stagione, di amare il cane irsuto e vagabondo ancora più dei suoi levrieri domestici, e di aspirare avidamente l'odore acre e violento delle strade. Si chiedeva se forse all'epoca delle crociate uno dei suoi antenati non avesse avuto un'avventura con una contadina circassa. La cosa gli pareva possibile, credeva di scoprire un alone bruno nella sua carnagione e rientrando in casa si ritirava in bagno. Un'ora dopo, profumato, arricciato, impomatato a dovere, riceveva le visite dei segretari e degli alti funzionari che gli portavano, l'uno dopo l'altro, scrigni rossi che non si aprivano se non con la sua chiave d'oro. Contenevano documenti della più alta importanza, dei quali restano solo dei frammenti. Qui un fregio, là un sigillo saldamente attaccato a un nastro di seta bruciato. Del loro contenuto non possiamo quindi dire nulla, possiamo solo attestare che tra le ceralacche e i sigilli, i nastri di colore diverso che bisognava legare in diverso modo, le intestazioni in tondo e i fregi intorno alle maiuscole, Orlando aveva il suo da fare fino alla colazione di mezzogiorno, un pasto sontuoso di forse 30 portate. Dopo colazione, I lacchè annunciavano che il tiro a sei era alla porta ed egli usciva, preceduto da giannizzeri vestiti di rosso che correvano a piedi, agitando grandi flabelli di piume di struzzo sopra le loro teste. Andava in visita presso altri ambasciatori o dignitari statali. Il cerimoniale era sempre lo stesso. Giunti nel cortile, i giannizzeri battevano coi flabelli sul portale d'onore, che subito si spalancava, rivelando una vasta stanza splendidamente ammobiliata. Vi si trovavano sedute due persone, solitamente di sesso diverso. Ci si scambiavano inchini e riverenze, e in quella prima sala era permesso parlare solo del tempo. Dopo aver detto che faceva bel tempo o pioveva caldo o freddo, l'ambasciatore passava nella sala vicina dove altri due personaggi si alzavano per riverirlo. Qui era concesso solo paragonare Costantinopoli a Londra come residenza e naturalmente l'ambasciatore diceva di preferire Costantinopoli e i suoi ospiti naturalmente dicevano di preferire Londra, anche se non l'avevano mai vista. Nella sala successiva si doveva discutere dettagliatamente sulla salute di Re Carlo e quella del sultano. Nella seguente si discuteva della salute dell'ambasciatore e di quella della padrona di casa, ma più concisamente. Nella successiva l'ambasciatore complimentava l'ospite per il suo arredamento e l'ospite complimentava l'ambasciatore per il suo vestito. Nella seguente venivano offerti dei dolciumi di cui l'ospite deplorava la qualità scadente che l'ambasciatore lodava come squisiti. La cerimonia si chiudeva infine con una fumata di hookah e una tazza di caffè. O per meglio dire, si mimavano i gesti del bere e del fumare, benché non ci fosse tabacco nella pipa né caffè nella tazza, perché se fumo e bevanda fossero stati veri, l'organismo umano non avrebbe retto. Infatti, appena sbrigata quella visita, l'ambasciatore doveva intraprenderne un'altra. Le stesse cerimonie si svolgevano esattamente nello stesso ordine per 6 o 7 volte in casa degli altri dignitari, così che spesso era notte alta prima che l'ambasciatore tornasse a casa. Anche se Orlando compiva quelle sue mansioni in modo ammirevole e ammetteva che costituissero forse la parte capitale dei doveri di un diplomatico, indubbiamente ne aveva abbastanza e spesso cadeva in una tale depressione che preferiva pranzare da solo coi suoi cani. Lo si sentiva parlar loro nella sua lingua. E si dice che a volte, a tarda notte, uscisse dai cancelli del suo palazzo travestito in modo che le guardie non lo riconoscessero. Allora si mescolava alla folla sul ponte di Galata, o vagava per i bazar, o si toglieva le scarpe e si univa ai fedeli nelle moschee. Un giorno, mentre correva voce che fosse malato di febbri, dei pastori che portavano le capre al mercato raccontarono di aver incontrato sulla montagna un lord inglese e di averlo sentito pregare il suo Dio. Si pensò che si trattasse di Orlando e la preghiera era senza dubbio una poesia che egli recitava ad alta voce, perché si sapeva che portava sempre con sé, nascosto sotto il mantello, un manoscritto pieno di correzioni. E i servi che origliavano alla porta avevano sentito l'ambasciatore, quando era solo, cantilenare qualcosa in un bizzarro tono salmodiante. È con frammenti di questo genere che dobbiamo tentare di ricostruire alla meglio un quadro della vita e del carattere di Orlando a quell'epoca. Ancora oggi persistono dicerie, leggende, aneddoti vaghi e poco attendibili sulla vita di Orlando a Costantinopoli. Ne abbiamo citati solo alcuni, che concorrono a provare che ora, nel fiore dell'età, egli aveva quel potere di risvegliare la fantasia e di attirare l'attenzione, potere capace di mantenere a lungo viva la memoria dopo che l'oblio ha ricoperto l'opera di qualità più duratura. È un potere misterioso, composto di bellezza, lignaggio e di un dono ancora più raro che per brevità possiamo chiamare fascino. 1 milione di candele, come aveva detto Sasha, ardevano in Orlando senza che egli si curasse di accenderne neppure una. Aveva le movenze di un cervo, senza bisogno di pensare alle sue gambe. Parlava con voce naturale e un eco faceva risuonare un gong d'argento. Ecco il perché di tante dicerie sul suo conto. Fu adorato da molte donne e da qualche uomo. Non era necessario avergli parlato e neanche averlo visto. Bastava loro evocare, specialmente sullo sfondo di un paesaggio romantico o di un tramonto, la figura di un nobile gentiluomo in calze di seta. Sui poveri, sugli incolti, esercitava lo stesso potere che sui ricchi. Pastori, zingari, asinai, cantano tuttora canzoni sul lord inglese che gettò i suoi smeraldi nel pozzo. Espressione che si riferisce indubbiamente a Orlando, che una volta, in un momento di rabbia o di ebbrezza, si dice, si strappò di dosso i gioielli e li gettò in una fontana, da cui un paggio li ripescò. ma quel romantico potere spesso si associa, è noto, a una natura estremamente riservata. Sembra che Orlando non abbia avuto amici. Per quanto ne sappiamo, non strinse legami. Una certa grandama venne dall'Inghilterra per stargli vicino, pressandolo con le sue attenzioni, ma egli continuò ad adempiere ai suoi doveri, così indefessamente che erano trascorsi appena 2 anni e mezzo dalla sua nomina d'ambasciatore al Corno d'Oro, che già Re Carlo gli esprimeva la sua intenzione di elevarlo ai gradi più alti del pariato. Gli invidiosi dissero che era un tributo di Nell Gwyn al ricordo di certe gambe. Ma dato che lo aveva visto una volta sola e in quel momento era occupatissima a bersagliare di noccioline il suo regale amante, è probabile che Orlando dovesse il proprio ducato ai suoi meriti e non ai suoi polpacci. Qui dobbiamo fare una pausa perché siamo arrivati a un momento denso di significato della sua carriera. L'attribuzione del titolo di duca dette occasione a un avvenimento clamoroso e assai discusso, che siamo costretti a descrivere avanzando alla meglio tra carte bruciate e rimasugli di nastro. L'ordine del bagno e la patente di nobiltà giunsero con una fregata al comando di Sir Adrian Scrope sul finire del grande digiuno del Ramadan. E Orlando colse l'occasione per dare una festa di uno splendore mai visto prima o dopo a Costantinopoli. La notte era bella, la folla immensa e le finestre dell'ambasciata brillantemente illuminate. Mancano di nuovo i particolari perché sui documenti sono passate le fiamme, lasciando solo dei frammenti enigmatici, torturanti, che fanno restare nel buio i punti essenziali. Tuttavia, dal diario di John Fenner-Bridge, un ufficiale della Marina britannica che era fra gli invitati, apprendiamo che gente di ogni nazione era stipata come aringhe in un barile nella corte del palazzo. La calca era così spiacevolmente fitta che Bridge si arrampicò su un albero di Giuda, eccellente osservatorio per lo spettacolo. Fra gli indigeni era corsa voce, e questa è una prova ulteriore del potere misterioso che Orlando esercitava sull'immaginazione, che si sarebbe assistito a un miracolo. E così, scrive Bridge, ma il manoscritto è pieno di buchi e bruciature ed alcune frasi sono assolutamente illeggibili, quando i razzi cominciarono a friggere in aria, si diffuse tra di noi un certo malessere per il timore che la popolazione indigena fosse colta da grave di funeste conseguenze per tutti. Signore inglesi, in nostra compagnia, confesso che la mano mi corse al pugnale. Fortunatamente. Continua nel suo stile piuttosto prolisso. Tali paure sembrarono sul momento infondate e osservando il contegno degli indigeni, ne conclusi che tale dimostrazione della nostra maestria nell'arte pirotecnica era degna di nota, se non altro per l'effetto che produceva su di loro, la superiorità della britannica. In verità lo spettacolo era di una magnificenza indescrivibile. Mi trovai alternativamente a lodare il Signore che aveva concesso, ad augurarmi che la mia povera cara madre, per ordine dell'ambasciatore, le lunghe finestre, che sono un elemento così vistoso dell'architettura orientale, poiché per quanto io sia per molti versi ignorante, erano state spalancate. E all'interno potemmo vedere un tableau vivant, o apparato teatrale, in cui dame e gentiluomini inglesi rappresentavano un masque, opera di. Le parole non si sentivano, ma la vista di tanti nostri compatrioti e compatriote, vestiti con la più grande eleganza e distinzione, provai emozioni di cui certo non mi vergogno benché incapace, mentre stavo osservando la sorprendente condotta di Lady, che era tale da tirarsi tutti gli occhi addosso e da gettar discredito sul suo sesso e la sua patria. Ecco che, sfortunatamente, un ramo dell'albero di Giuda si spezzò, il luogotenente Bridge cadde a terra, e il resto del suo resoconto registra solo la sua gratitudine verso la provvidenza, che nel diario gioca un ruolo molto importante, e la natura esatta delle sue lesioni. Per fortuna, Miss Penelope Hartrop, figlia del generale di questo nome, vide la scena dall'interno del palazzo e ne racconta in una lettera, anche questa molto mutilata, che giunse alla fine tra le mani di una sua amica a Tunbridge Wells. Miss Penelope non era meno prodiga di entusiasmo del galante ufficiale. Incantevole! Esclama 10 volte per pagina. Mirabile! Assolutamente indescrivibile! Vasellame d'oro, candelabri, negri in brache di velluto, piramidi di ghiaccio, fontane di negus, gelatine che rappresentavano le navi di Sue Maestà, cigni acconciati a mo' di ninfee, uccelli in gabbie d'oro, signori in velluto scarlatto operato, signore con pettinature di almeno 6 piedi. Carillon? Mister Peregrine mi ha detto che ero assolutamente deliziosa. Lo ripeto a te sola, mia carissima, sapendo che... Oh, quanto mi siete mancati tutti voi! E supera tutto quanto si è visto a Pantil. Fiumi di bevande. Qualche gentiluomo passava il segno. Lady Betty, incantevole. La povera Lady Bonham ha commesso lo sfortunato errore di sedersi senza avere dietro una sedia. Gentiluomini tutti molto galanti. Desiderato 1000 volte per te e per la carissima Betty. Ma il centro d'attrazione generale e il polo di tutti gli sguardi erano tutti d'accordo, perché nessuno poteva essere tanto vile da negarlo, era l'ambasciatore. Che gambe, che portamento, che modi principeschi, vederlo entrare in sala e vederlo uscire, e quel non so che di interessante nell'espressione che, senza saperne il perché, lascia percepire che ha sofferto. Dicono che sia stato a causa di una dama. Mostro senza cuore, come può una rappresentante del nostro cosiddetto sesso debole aver avuto tanta sfrontatezza? Non è sposato e metà delle signore di qui muoiono d'amore per lui. Mille e mille baci a Tom, Jerry, Peter e al carissimo Mao, presumibilmente il gatto. Dalla gazzetta di quel tempo apprendiamo altresì che allo scoccare della mezzanotte l'ambasciatore si affacciò al balcone centrale, parato di preziosissimi tappeti. 6 turchi della guardia del corpo imperiale, ognuno alto più di 6 piedi, gli reggevano le torce a lato. Al suo apparire i razzi si alzarono in aria e dalla folla si levò un gran grido, a cui l'ambasciatore rispose con un profondo inchino, accompagnato da qualche parola di ringraziamento in turco. Poiché parlarlo correntemente fa parte delle sue doti. Avanzò quindi Sir Adrian Scrope, in alta uniforme di ammiraglio britannico. L'ambasciatore piegò il ginocchio a terra, l'ammiraglio gli cinse il collo del collare del nobilissimo ordine del bagno, quindi gli appuntò sul petto la stella. Dopodiché avanzò solennemente un altro gentiluomo del corpo diplomatico, gli mise sulle spalle il manto ducale e gli porse su un cuscino cremisi la corona di duca. Allora, con straordinaria maestà e grazia, prima inchinandosi profondamente, poi rialzandosi fiero, Orlando prese la coroncina dorata di foglie di fragola e con un gesto che rimase indimenticabile a tutti coloro che lo videro, se lo posò sulla fronte. Fu a questo punto che cominciarono i primi disordini. Forse il popolo si era aspettato un miracolo. Dicono che era stata profetizzata una pioggia d'oro dal cielo, che non avvenne. O forse quel momento era il segnale scelto per l'attacco. Pare che nessuno lo sappia, ma appena la corona si posò sulla fronte di Orlando, si levò un grande boato. Le campane cominciarono a suonare. Tra le urla della folla si levarono le grida acute dei profeti. Molti turchi si gettarono a terra e toccarono il suolo con la fronte. Fu forzata una porta. Gli indigeni invasero la sala della festa. Le donne urlavano. Una certa signora, che si dice morisse d'amore per Orlando, afferrò un candelabro e lo scagliò al suolo. Chissà cosa sarebbe accaduto se non fosse stato per la presenza di Sir Adrian Scrope e per una squadra di marinai britannici. L'ammiraglio fece suonare la fanfara d'allarme. 100 marinai furono subito agli ordini. La sommossa fu domata e sulla scena scese la calma, almeno provvisoria. Fin qui ci troviamo sul terreno sicuro, anche se angusto, della verità accertata. Ma nessuno ha mai saputo esattamente cosa avvenne dopo quella notte. La testimonianza delle sentinelle e di altre persone sembra tuttavia provare che verso le 2 di notte l'ambasciata era deserta e che le porte furono serrate come al solito. L'ambasciatore fu visto entrare nelle sue stanze ancora con le insegne del suo grado e chiudere la porta. C'è chi dice che chiuse a chiave, contrariamente alle sue abitudini. Altri pretendono di aver udito nel cortile sottostante la finestra dell'ambasciatore, a notte più avanzata, una musica primitiva, come quella dei pastori. Una lavandaia, rimasta sveglia per il mal di denti, disse di aver visto l'ombra di un uomo avvolto in un mantello o in una vestaglia uscire sul balcone. Poi una donna, disse, tutta imbacuccata, ma dall'aspetto di contadina, era stata issata fino al balcone per mezzo di una corda che l'uomo le aveva gettato. Vi si erano abbracciati appassionatamente come amanti, disse la lavandaia, ed erano rientrati insieme nella stanza tirando le cortine, così da non far vedere nient'altro. Il mattino dopo i segretari trovarono il duca, come d'ora in poi dovremmo chiamarlo, immerso in un sonno profondo, con le vesti da notte molto scomposte. La stanza era in un certo disordine, la corona ducale era arrotolata sul pavimento, il manto e la giarrettiera gettati alla rinfusa su una sedia. Il tavolo era ingombro di carte. Dapprima non nacque nessun sospetto perché le fatiche della notte erano state grandi, ma quando giunse il pomeriggio e Orlando dormiva ancora, fu chiamato il medico che prescrisse le stesse medicine usate la volta precedente, empiastri, ortiche, emetici, eccetera, ma senza successo. Orlando continuava a dormire. Allora i segretari credettero loro dovere esaminare le carte sul tavolo. Su parecchi erano scribacchiati versi in cui si parlava spesso di una quercia. C'erano anche vari documenti di Stato ed altri di carattere privato concernenti l'amministrazione dei suoi beni in Inghilterra. Ma da ultimo scoprirono una carta di importanza molto maggiore. Si trattava niente meno che di un atto di matrimonio steso, firmato, legittimato fra Sua Grazia Orlando, cavaliere della giarrettiera, eccetera, eccetera, e Rosina Pepita, ballerina, di padre ignoto ma presunto zingaro, di madre ugualmente ignota ma presunta venditrice di ferri vecchi sulla piazza del mercato sull'altra riva, di fronte al ponte di Galata. I segretari si guardarono esterrefatti e Orlando dormiva sempre. Da mattina a sera lo vegliarono, ma salvo il respiro regolare, le guance soffuse dell'abituale incarnato di rosa non dava segni di vita. Tutto ciò che la scienza o l'istinto potevano operare per svegliarlo venne fatto, ma egli continuò a dormire. Al settimo giorno del suo letargo, mercoledì 10 maggio, venne sparato il primo colpo di quella terribile e sanguinosa insurrezione di cui il luogotenente Bridge aveva scoperto i primi sintomi. I turchi insorsero contro il sultano, misero a fuoco la città e passarono a fil di spada ogni straniero che trovarono. Pochi inglesi riuscirono a mettersi in salvo, ma come era da aspettarsi, i gentiluomini dell'ambasciata britannica preferirono morire difendendo i loro scrigni rossi o, in caso estremo, ingoiare mazzi di chiavi piuttosto che lasciarli cadere in mano agli infedeli. I rivoltosi irruppero nella stanza di Orlando, ma vedendolo lungo disteso, morto secondo ogni apparenza, non lo toccarono e si accontentarono di rubargli la corona e l'insegna della giarrettiera. E ora scende di nuovo l'oscurità, e magari fosse ancora più profonda. Magari, abbiamo quasi in animo di esclamare, fosse tanto profonda da non farci vedere nulla al di là delle sue tenebre opache. Magari a questo punto potessimo prendere la penna e scrivere finis al nostro lavoro, potessimo risparmiare al lettore ciò che verrà, dicendogli in poche parole: Orlando morì e fu sepolto. Ma qui, ahimè, verità, purezza e onestà, le dee austere che fanno buona guardia presso il calamaio del biografo gridano no! Portandosi alle labbra le trombe d'argento, intonano verità e ancora gridano verità! E per la terza volta tuonano all'unisono verità e nient'altro che la verità. Al che, sia lodato il cielo, questo ci permette di riprendere fiato. Le porte si aprirono dolcemente, come se un soffio del più soave e celeste zefiro le avesse dischiuse. Ed entrarono tre figure. Per prima avanza Nostra Signora di Purità, alla fronte cinta di bende della più bianca lana d'agnello. I suoi capelli sono un profluvio di neve soffice, e nelle sue mani riposa la bianca piuma di un'oca vergine. Dietro a lei, ma con passo più altero, viene Nostra Signora di Castità, sulla cui fronte è posato un diadema di ghiaccioli, fuoco che arde ma non distrugge. I suoi occhi sono stelle e il tocco delle sue dita gela fin nel midollo. Stretta a lei, cercando rifugio all'ombra delle sorelle più sicure, la segue Nostra Signora di Modestia, la più fragile e la più bella delle tre, e mostra del suo volto quanto la giovane luna quando è una falce sottile seminascosta fra le nubi. Tutte e tre avanzano al centro della stanza, dove Orlando giace ancora addormentato, e con gesti che implorano e comandano insieme, Nostra Signora di Purità parla per prima. Io veglio sul cerbiatto addormentato, mi è cara la neve e la luna che sorge e il mare d'argento. Copro con la mia veste le uova di gallina screziate, le conchiglie di mare striate. Ricopro vizio e povertà. Su ogni cosa fragile o sinistra o dubbia scende il mio velo. Perciò non parlate, non rivelate, pietà, oh pietà. E qui le trombe squillano. Vattene, purità, via di qui, purità. Allora parla Nostra Signora di Castità. Io sono colei il cui tocco gela e il cui sguardo in pietra. Ho fermato la stella nella sua danza e l'onda nella sua caduta. Le Alpi più eccelse mi sono dimora e quando cammino dai capelli mi sprizzano lampi. Dove cade il mio sguardo uccide. Piuttosto che lasciarlo svegliare gelerò urlando fino all'osso. Pietà, oh, pietà! E qui le trombe squillano. Vattene, Castità, via di qui, Castità! Allora parla Nostra Signora di Modestia, voce così bassa che si ode appena. Io sono colei che gli uomini chiamano Modestia, sono vergine e lo sarò sempre. Non sono per me il campo fecondo e la vigna fertile. La fecondità mi è odiosa e quando i meli fioriscono e le agnelle figliano io fuggo, fuggo e lascio cadere il manto. I capelli mi coprono gli occhi, non vedo nulla. Pietà, oh pietà! Ancora le trombe squillano. Vattene, Modestia, via di qui, Modestia! Con gesti di dolente lamento, le tre sorelle ora uniscono le mani e agitando i veli danzano lentamente, cantando. Verità, non uscire dal tuo arido antro, nasconditi ancor più in fondo, verità tremenda, che ostenti alla cruda luce del sole cose che sarebbe meglio ignorare e non fare. Tu sveli l'onta, tu illumini l'ombra, nasconditi, nasconditi, nasconditi! Ora fanno il gesto di coprire Orlando con le loro vesti e le trombe ancora tuonano. La verità è nient'altro che la verità. Allora le tre sorelle cercano di gettare i veli sulla bocca delle trombe per soffocarle, ma invano, perché ora le trombe gridano concordi. Orride sorelle, andatevene! Sconvolte, le sorelle gemono all'unisono nel ritmico turbinio dei loro veli. Non è stato sempre così, ma gli uomini ci ripudiano, le donne ci detestano. Ce ne andiamo, ce ne andiamo. Io, parla la purità, vado sul trespolo del pollaio. Io, parla la castità, sulle alture ancora inviolate del Surrey. Io, parla la modestia, in qualsiasi comodo cantuccio dove ci siano edera e tende a profusione. Perché là, non qui parlano tutte insieme, unendo le mani e facendo gesti d'addio e di disperazione verso il letto dove Orlando giace nel sonno. Vivono ancora nel nido e nel salotto, negli uffici e nelle corti di giustizia, quelli che ci amano, quelli che ci onorano, vergini e uomini d'affari, medici e avvocati, quelli che proibiscono, quelli che negano, quelli che si prosternano senza sapere perché, quelli che lodano senza capire. La tribù ancora numerosa, sia lodato il cielo, delle persone rispettabili, di chi preferisce non vedere, di chi non è ansioso di sapere, di chi ama il buio. Questi ancora ci venerano, e a ragione, perché noi abbiamo dato loro ricchezza, prosperità, benessere, quiete. Da loro ci rechiamo, voi abbandoniamo, via sorelle, via, questo non è posto per noi. E in fretta si ritirano, agitando i veli intorno al capo, come per esorcizzare qualcosa che non osano guardare, e si chiudono la porta dietro. Eccoci dentro, completamente soli nella stanza, con Orlando dormiente e gli araldi. Questi, dopo essersi schierati in riga, tuonano un terribile grido: La verità! A quel grido, Orlando si svegliò, si stirò, si alzò, ci stava davanti in piedi, completamente nudo, e al clamore delle trombe: Verità! Verità! Verità! Non ci resta che confessarlo. Orlando era una donna! L'eco delle trombe svanì e Orlando restò immobile, in totale nudità. Mai, da che mondo è mondo, creatura umana era apparsa più incandevole. La sua forma affondeva la forza virile alla grazia femminile. Intanto le trombe d'argento prolungarono la loro nota, quasi riluttanti ad abbandonare la leggiadra vista che il loro clangore aveva evocato. E Castità, Purità e Modestia, ispirate senza dubbio da curiosità, sogguardarono dalla porta e gettarono su quella forma nuda un indumento, una specie di drappo, che purtroppo mancò la mira di parecchi pollici. Orlando si guardò da capo a piedi in un alto specchio, senza dare segno di turbamento, e poi si ritirò, verosimilmente, in bagno. Cogliamo l'occasione di questa pausa nel racconto per fare alcune constatazioni. Orlando era diventata donna, è innegabile, ma sotto ogni altro riguardo Orlando era identico a prima. Il mutamento di sesso poteva cambiare il futuro dei due Orlando, ma non mutò affatto la loro identità. I loro visi rimasero, come provano i ritratti, praticamente uguali. Lui poteva, ma d'ora in poi sarà bene per convenzione dire lei, anziché lui. Lei poteva dunque risalire nella memoria il corso degli eventi del suo passato senza incontrare ostacoli. Poteva esserci forse una bruma leggera, come se poche gocce scure fossero cadute nello stagno limpido della memoria. Certe cose si erano appena intorbidate, ecco tutto. La metamorfosi sembrava essersi compiuta in modo indolore e completo, in maniera tale che Orlando stessa non ne fu sorpresa. Molti, considerando questo fatto e sostenendo che un mutamento di sesso è contro natura, ce l'hanno messa tutta per provare, uno, che Orlando era sempre stato una donna, due, che Orlando era tuttora un uomo. Lasciamo il dilemma ai biologi e agli psicologi, a noi basterà constatare il fatto in sé. Orlando era stato un uomo fino ai 30 anni, dopo di allora diventò una donna e tale è rimasta. Lasciamo ad altra penna il trattare di sesso e di sessualità. Noi rifuggiamo appena possibile da soggetti così scabrosi. Orlando, dopo essersi lavata, aveva indossato una di quelle casacche e pantaloni alla turca che i due sessi possono portare indifferentemente e fu costretta a considerare la sua situazione. Che fosse precaria ed estremamente imbarazzante, salterò subito agli occhi di ogni lettore che ne abbia seguito con simpatia la storia. Giovane, nobile, bella, si era svegliata per trovarsi nella posizione più delicata che si possa immaginare per una giovane signora di rango. Non l'avremmo biasimata se avesse suonato in furia il campanello, se avesse gridato o fosse svenuta. Ma Orlando non mostrò simili segni di turbamento. Tutte le sue azioni furono estremamente calcolate, tanto da potervi quasi ravvisare indizi di premeditazione. Per prima cosa esaminò accuratamente le carte sul tavolo. Ne prese alcune che sembravano scritte in versi e se le nascose in seno. Poi chiamò il suo levriero, il quale, benché quasi morto di fame, non aveva mai lasciato il letto di lei per tutti quei giorni. Gli dette da mangiare e lo pettinò. Poi si infilò alla cintura un paio di pistole. Infine indossò alcuni fili di smeraldi e di perle del più bell'Oriente che avevano fatto parte del suo guardaroba di ambasciatore. Dopodiché si affacciò alla finestra. E mise un solo fischio sommesso. Scese per la scala tutta sconquassata e macchiata di sangue, ora cosparsa di pezzi di carta straccia, di trattati, dispacci, sigilli, ceralacche, eccetera, e si trovò nel cortile. Là, all'ombra di un fico gigante, attendeva un vecchio zingaro su un asino. Ne teneva un altro per la briglia. Orlando lo inforcò e così, scortata da un cane macilento, a cavallo di un somaro in compagnia di uno zingaro, l'ambasciatore di Gran Bretagna alla corte del sultano lasciò Costantinopoli. Cavalcarono per diversi giorni e notti, incorrendo in svariate avventure, alcune dovute agli uomini, altre alla natura, e sempre Orlando se la cavò con onore. Dopo una settimana avevano raggiunto l'altipiano sopra Brussa, dove era l'accampamento principale della tribù di zingari a cui Orlando si era unita. Spesso dal suo balcone all'ambasciata aveva guardato quei monti. Spesso aveva desiderato essere laggiù e trovarsi dove si è sempre desiderato dà da pensare a uno spirito meditativo. Per un po' di tempo, tuttavia, Orlando fu troppo soddisfatta del cambiamento per guastarlo con riflessioni. La gioia di non avere documenti da sigillare o da firmare, svolazzi da tracciare, visite da restituire, le bastava. Gli zingari seguivano il pascolo. Quando era esaurito, si spostavano. Orlando si lavava, se si lavava. Ai ruscelli, nessuno scrigno rosso, blu o verde le veniva presentato. Non c'era in tutto l'accampamento una sola chiave, figuriamoci una chiave d'oro. Quanto alla parola far visita, era sconosciuta. Mungeva le capre, andava a far legna, rubava qua e là un uovo di gallina, ma lasciava sempre al suo posto una moneta o una perla. Pascolava il bestiame, spigolava per le vigne, pigiava l'uva, riempiva l'otre di pelle di capra da cui beveva. E quando ricordava che a quell'ora della giornata avrebbe dovuto trovarsi a far finta di bere e di fumare davanti a una tazza vuota o a una pipa senza tabacco, scoppiava a ridere. Si tagliava un'altra fetta di pane e chiedeva una boccata di pipa al vecchio Rustum, benché fosse riempita con sterco di vacca. Gli zingari, coi quali evidentemente aveva avuto contatti segreti prima della rivoluzione, sembravano considerarla una di loro. È sempre l'omaggio più grande che un popolo possa tributare. E i suoi capelli neri, la sua carnagione scura, inducevano davvero a credere che fosse una di loro per nascita e che un duca inglese l'avesse rapita nella prima infanzia da qualche albero di noce e condotta in quel paese barbaro dove la gente vive nelle case perché è troppo fiacca e malata per sopportare l'aria aperta. Così, benché fosse per molti versi inferiore a loro, erano disposti ad aiutarla a diventare come loro. Le insegnarono le loro arti di fare il formaggio e di intrecciare cesti e le scienze di rubare e di uccellare, ed erano pronti perfino all'eventualità di farle sposare uno di loro. Ma Orlando aveva contratto in Inghilterra alcune di quelle abitudini o malattie, secondo come preferite chiamarle, che sembrano impossibili a debellarsi. Una sera, mentre tutti erano seduti intorno al fuoco dell'accampamento e il sole al tramonto dardeggiava sulle colline della Tessaglia, Orlando esclamò: «Com'è saporito!» «Gli zingari non hanno una parola per bello, questa è l'espressione più affine.» Tutti i giovani, uomini e donne, scoppiarono in una risata fragorosa, come il cielo saporito. Tuttavia, gli anziani, che avevano visto più stranieri, si insospettirono. Notarono che troppo spesso Orlando passava ore intere seduta senza far nulla, se non guardarsi intorno, e l'avevano già sorpresa in cima a una collina, lo sguardo fisso davanti a sé, senza curarsi se le pecore pascolassero o si smarrissero. Cominciarono a sospettare che avesse credenze diverse dalle loro, e gli anziani, uomini e donne, ritennero probabile che fosse caduta tra le grinfie del più basso e crudele di tutti gli dèi, cioè la natura. E non sbagliavano di molto. Quel male tutto inglese, l'amore per la natura, era innato in lei. E qui, dove la natura era tanto più vasta e possente che in Inghilterra, lei era caduta in suo potere come mai prima. È una malattia troppo nota e troppe volte, ahimè, era stata descritta perché si debba farlo qui, se non in sintesi estrema. C'erano monti, c'erano valli, c'erano corsi d'acqua. Lei scalava i monti, vagava per le valli, sedeva sulle sponde dei ruscelli, paragonava le colline a bastioni, a petti di colombe, a fianchi di giovenca, paragonava i fiori a smalto, l'erba a un tappeto turco logorato, gli alberi erano megere raggrinzite, le pecore massi grigi. Ogni cosa, insomma, era qualcos'altro. Orlando scopriva il laghetto in cima alla montagna e quasi vi si tuffava alla ricerca della saggezza che vi credeva nascosta. E quando da una cima di monte contemplava la lontananza, oltre il Mar di Marmara, oltre le pianure della Grecia, e scopriva, aveva occhi acutissimi, l'acropoli con una o due strisce bianche, che certo dovevano essere il Partenone, pensò, l'anima le si dilatava con la pupilla, e lei implorava di fondersi con la maestà delle colline, di conoscere la serenità delle pianure, eccetera, eccetera, come fanno quei credenti. Poi guardava i suoi piedi, e il giacinto rosso e l'ireo spurpureo le strappavano un grido estatico di fronte alla bontà, alla bellezza della natura. E rialzando gli occhi vedeva l'aquila librarsi in volo, ne immaginava le ebbrezze e vi si identificava. Sulla via del ritorno salutava ogni stella, ogni picco, ogni fuoco di guardia, come se avessero un messaggio per lei sola. E quando infine si gettava sulla stuoia sotto la tenda degli zingari, non poteva fare a meno di esclamare ancora: «Com'è saporito! Com'è saporito!» È curioso che gli esseri umani, benché abbiano dei mezzi di espressione così imperfetti da non sapere dire altro che saporito quando vogliono dire bello e viceversa, preferiscano esporsi al ridicolo e all'incomprensione piuttosto che tenere per sé le proprie esperienze. Tutti gli zingari giovani ridevano, ma Rustum El Sadi, il vecchio che aveva guidato Orlando fuori da Costantinopoli, restò seduto in silenzio. Aveva il naso come una scimitarra, le guance scavate come da un'annosa grandine di ferro, era bruno con lo sguardo aguzzo e mentre sedeva tirando boccate dalla hookah, osservava attentamente Orlando. Aveva il forte sospetto che il dio di lei fosse la natura. Un giorno la trovò in lacrime, interpretandole come una punizione del suo dio, le disse di non essere sorpreso. Le mostrò le dita della mano sinistra disseccate dal gelo. Le mostrò il piede destro schiacciato dalla caduta di un masso. «Ecco», disse, «cosa faceva il suo Dio agli uomini?» E quando lei disse «Ma così bello», servendosi della parola inglese, il vecchio scosse il capo. E quando lei ripeté la parola, si arrabbiò. Vide che lei non credeva nelle stesse cose in cui credeva lui, e tanto bastava, per quanto saggio il vecchio fosse, per farlo infuriare. Questa differenza di opinioni disturbò Orlando, che fino ad allora era stata perfettamente felice. Cominciò a pensare se la natura era bella o crudele. Quindi si chiese in che cosa consistesse questa bellezza, se fosse nelle cose in sé o solo dentro di lei, e così via, fino alla natura della realtà che la portò alla verità, che a sua volta, come in questi giorni sulla collina in patria, la portò all'amore, all'amicizia, alla poesia. E quelle meditazioni, dato che non poteva farne parola, le fecero desiderare, come mai prima, penna e calamaio. Ah, se solo potessi scrivere! Perché aveva la bizzarra idea di quelli che scrivono che scrivere le parole significhi condividerle. Non aveva inchiostro e ben poca carta, ma si fabbricò dell'inchiostro con more e vino, e utilizzando alcuni margini e spazi vuoti del manoscritto della quercia, e inventando una specie di stenografia, riuscì a descrivere il paesaggio in un lungo poema in versi sciolti e a imbastire un dialogo abbastanza conciso con se stessa sulla bellezza e la verità. Questo la rese supremamente felice per lunghe ore. Ma gli zingari si insospettirono. Prima di tutto si accorsero che era meno zelante di prima nel mungere e nel fare i formaggi, poi che spesso esitava prima di rispondere. E un giorno uno zingarello che dormiva si svegliò terrorizzato sentendosi fissi addosso gli occhi di lei. A volte l'intera tribù, che contava diverse dozzine di adulti tra uomini e donne, era invasa da quel malessere. Nasceva dalla sensazione, e i loro sensi erano molto acuti e assai più progrediti del loro vocabolario, che qualsiasi cosa intraprendessero si riducesse loro in cenere tra le mani. Una vecchia intrecciava un cesto, un ragazzo scuoiava una pecora, ed entrambi lavoravano contenti, cantando una canzone o una nenia, quando ecco che Orlando entrava nell'accampamento. Si gettava per terra accanto al fuoco e fissava le fiamme. Non c'era neanche bisogno che li guardasse. Essi sentivano ugualmente. Qui c'è qualcuno che dubita. Traduciamola meglio la lingua zingara. Qui c'è qualcuno che non fa le cose per farle e basta, e che non guarda per guardare e basta. Qualcuno che non crede alle pelli di pecora né ai cesti, ma vede, e qui i loro sguardi si volgevano apprensivi intorno alla tenda, qualcos'altro. Vede qualcos'altro. Allora un sentimento vago ma oltremodo sgradevole si impadroniva poco a poco del ragazzo e della vecchia. Rompevano i vimini, si tagliavano le dita. Li prendeva una rabbia terribile. Si auguravano che Orlando uscisse dalla tenda e non si avvicinasse mai più a loro. Eppure aveva un carattere allegro e disponibile, ammettevano, e una sola delle sue perle valeva il più bel gregge di capre di brussa. Pian piano Orlando cominciò a sentire che fra lei e gli zingari c'era un divario, che talvolta la rendeva incerta l'idea di sposarsi e di integrarsi stabilmente nella tribù. Dapprima cercò di spiegarselo dicendosi che lei proveniva da una razza antica e civile, mentre gli zingari erano gente rozza, poco più che selvaggi. Una sera, che la interrogavano sull'Inghilterra, non poté fare a meno di descrivere con un certo orgoglio la casa dove era nata, che aveva 365 camere da letto e apparteneva alla sua famiglia da 400 o 500 anni. I suoi antenati erano conti, anzi duchi, aggiunse. A queste parole notò nuovamente che gli zingari erano inquieti, ma non irritati come prima, quando aveva lodato le bellezze della natura. Ora erano cortesi, ma sostenuti, come gente di alta nascita davanti a uno straniero che sia stato costretto a rivelare le sue basse origini o la sua povertà. Solo Rustum seguì Orlando fuori dalla tenda. E le disse che non doveva prendersela se suo padre era duca e possedeva tutte quelle stanze e quei mobili di cui lei aveva parlato. Nessuno avrebbe pensato male di lei per questo. Allora fu presa da una vergogna mai provata prima. Era chiaro che Rustum e gli altri zingari reputavano ben poca cosa una discendenza di soli 4 o 5 secoli. Le loro famiglie risalivano ad almeno 2 o 3 mila anni prima. Per gli zingari, i cui antenati avevano costruito le piramidi secoli prima della nascita di Cristo, le genealogie degli Howard e dei Plantageneti contavano quanto quelle degli Smith e dei Jones. Erano tutte quante ugualmente insignificanti. Inoltre, dove il pastorello poteva vantare un tale lignaggio, un'antica origine non appariva particolarmente memorabile né desiderabile, essendo condivisa da qualunque vagabondo o mendicante. E poi, anche se lo zingaro era troppo cortese per parlarne apertamente, era chiaro il suo pensiero che non c'era ambizione più volgare che quella di possedere camere da letto a centinaia. Parlando erano arrivati in cima a una collina, era notte, i monti si innalzavano intorno a loro. Quando la terra intera è nostra. Orlando capì che, dal punto di vista di uno zingaro, un duca non era che un profittatore o un brigante che strappava forza la terra e il denaro a chi teneva in poco conto queste cose. E non sapeva escogitare nulla di meglio che costruire 365 stanze quando una bastava, anzi, nessuna era anche meglio. Lei non poteva negare che i suoi antenati avevano accumulato un pezzo di terra dopo l'altro, una casa dopo l'altra, un titolo dopo l'altro. Ma tra loro non c'era né un santo, né un eroe, né un grande benefattore dell'umanità. E non avrebbe potuto neppure contestare l'argomentazione. Rustum era troppo signore per usarla, ma lei capì che un uomo che avesse agito oggi come i suoi antenati 300 o 400 anni prima sarebbe stato tacciato, e più di tutti dalla sua stessa famiglia, di volgare arrampicatore, di avventuriero, di nouveau riche. A quegli argomenti cercò di replicare, col metodo comune, anche se subdolo, di trovare la vita zingaresca in sé piuttosto ruda e barbara. Cosicché, in breve tempo, cominciò a correre tra loro cattivo sangue. Simili divergenze di opinioni, in effetti, bastano spesso a provocare spargimento di sangue e rivoluzioni. Città sono state saccheggiate e milioni di martiri hanno affrontato il rogo, piuttosto che cedere di un pollice su un punto di questa discussione. Non c'è, nel petto dell'uomo, passione più forte del desiderio di far pensare gli altri come lui. Nulla tronca alla radice la sua felicità, nulla lo riempie di tanto furore come sapere che un altro tiene a vile ciò che egli pregia. Whigs e Tories, liberali e laburisti, per che cosa lottano se non per il prestigio? Non è l'amore per la verità, ma il desiderio di dominio ad opporre una fazione all'altra, a far desiderare a una parrocchia la rovina di un'altra. Ognuno bada al quieto vivere e al tornaconto, piuttosto che al trionfo della verità e all'esaltazione della virtù. Ma queste moralità sono di competenza dello storico, al quale le lasceremo, dato che sono grigie come acqua di fosso. 476 stanze da letto non significano nulla per loro, sospirava Orlando. Preferisce un tramonto a un gregge di capre, dicevano gli zingari. Orlando non sapeva davvero cosa fare. Lasciare gli zingari e ridiventare ambasciatore le sembrava intollerabile, ma era ugualmente impossibile restare in un luogo dove non c'era né inchiostro né carta per scrivere, né rispetto per i Talbot, né considerazione per un gran numero di stanze. Così pensava, mentre una bella mattina pascolava le capre sulle pendici del Monte Athos. E a questo punto la natura, nella quale aveva tanta fede, le giocò uno scherzo, oppure fece un miracolo. Ancora una volta i pareri sono troppo discordi per poter decidere. Fissava piuttosto sconsolata il pendio scosceso di fronte a lei. Era piena estate, il paesaggio, se dovessimo scegliere un paragone, sembrava un osso spolpato, uno scheletro di montone, un gigantesco cranio sbiancato da 1.000 avvoltoi. Il caldo era intenso e il piccolo fico sotto il quale era distesa Orlando serviva a malapena a disegnare un motivo di foglie sul suo burnus leggero. D'improvviso un'ombra, benché non ci fosse nulla che potesse proiettare ombra, apparve sulla roccia brulla della montagna di fronte. Rapidamente si infittì e dove prima c'era roccia nuda non tardò ad apparire una verde cavità. Sotto i suoi occhi la cavità si fece più larga e profonda e nel fianco della collina si aprì lo spazio di un parco. Dentro vide un prato folto e ondulato, vide querce sparse qua e là, vide tordi che saltellavano fra i rami, vide il daino muoversi cauto di ombra in ombra, e sentì perfino il ronzio degli insetti, i sospiri soavi, i fremiti di un giorno d'estate in Inghilterra. Dopo un po' che contemplava rapita, cominciò a cadere la neve. Subito il paesaggio si coprì, segnato da ombre viola anziché dalla luce del sole. Ora vide sulle strade carri pesanti, carichi di tronchi destinati, lo sapeva, ad essere tagliati in pezzi di legna da ardere. E infine le apparvero i tetti e le guglie e le torri e i cortili della sua casa. La neve cadeva fitta ed ora ne udiva il fruscio e il tonfo lieve che faceva scivolando dal tetto fino a terra. Il fumo saliva da 1.000 camini, tutto era così chiaro e distinto che vedeva anche una cornacchia beccare la neve in cerca di vermi. Poi, gradatamente, le ombre viola si infittirono, si chiusero sui carri, sui prati e sulla grande casa. Tutto fu inghiottito. Ora la cavità erbosa era scomparsa e al posto dei prati verdi c'era solo il fianco lucente della collina che pareva denudata da 1.000 avvoltoi. A quella vista scoppiò in lacrime e, tornando in fretta all'accampamento degli zingari, annunciò loro che l'indomani stesso doveva imbarcarsi per l'Inghilterra. Fu una soluzione felice. I giovani della tribù avevano già tramato la sua morte. Lo esigeva all'onore, dicevano, perché lei non la pensava come loro. Tuttavia sarebbero stati spiacenti di tagliarle la gola e quindi accolsero con gioia la notizia della sua partenza. Fortuna volle che un mercantile inglese fosse già pronto in porto a vele spiegate per salpare alla volta dell'Inghilterra. E Orlando, staccata un'altra perla dalla sua collana, non solo pagò la traversata, ma ne ebbe ancora qualche banconota che mise da parte. Avrebbe voluto regalarla agli zingari, ma sapeva che disprezzavano la ricchezza e dovette accontentarsi di abbracci che da parte sua furono sinceri.